sorprendente e a volte divertente pensare a ciò che noi facciamo quotidianamente. Cerchiamo sempre la luna in ogni istante, ma non vediamo un altro mondo circostante ed esco fuori. Mi mischio fra la gente, coinvolto in una vita travolgente, in un ritmo incessante, inizio a muovermi. Così cammino con un fare indifferente, sono confuso e non capisco quasi niente di ciò che mi succede intorno, di ciò che vedo qui ogni giorno. Ognuno che assolutamente non vuole essere il perdente ed io che grido, grido, non è così importante ciò che ci fa sembrare di essere, invece non lo è. Io che rido, rido, è quasi imbarazzante come la mente a volte ci conduca proprio verso il niente. Come fosse l'unica cosa importante. E me ne vado via.